anche lo stomaco mio che gorgoglia, drago. È inutile che ti tocchi. Cosa ti tocchi? Gesti, come si chiamano? Prapotopropeichi. Atopropeichi, protopapeichi. Ti stai toccando le balle, cosa dici? Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa, un saluto da Drago, di come facciamo prima. Oggi non si scappa, Drago, dal fatto che è il giorno dei morti. Allora, un pensiero veloce ma intenso a tutti i nostri cari che non ci sono più, animali da compagnia compresi, un attimo di silenzio. Tito, dai, ma siamo in raccoglimento! Niente, è vietato stare zitti alla radio, logicamente, quindi Tito interviene come se fosse la control room. Quindi, in un giorno allegro come il giorno dei morti, noi dobbiamo ridere, scherzare, perché così sta scritto sul contratto, è tanto allegro. Il 2 novembre non è che sia mai stato un giorno particolarmente triste né allegro, un giorno come gli altri. Si dice possiamo farcela. Allegro come il 2 di novembre. Il 2 di picche. Vabbè, innanzitutto dobbiamo dire che l'iniziativa sulle barzellette da commercialisti è stata un flop clamoroso. Cioè non arriva niente. Ma praticamente mi sono accorto che non esistono barzellette da commercialisti, cioè ne esistono sui commercialisti, ma non barzellette che i commercialisti si raccontano tra loro, non so, barzellette su Trichet, su Draghi, niente, lo zero assoluto. Io non capisco che barzellette possano girare su uno come Trichet. Ma come Trichet, dai, ma è una persona saria, rispettata, un po' grigia, non è che faccia venire in mente chissà che storiella, che battuta, e Draghi è ancora peggio. Vabbè, ok, ho capito anch'io. Basta con le barzellette da commercialisti, dimentichiamocele. Anzi, le uniche decenti arrivano da Enrico, che dice: Enrico, grazie. Sai qual è la differenza fra una commercialista donna e un pitbull? Il rossetto, che però secondo me è riciclata da qualche altra categoria, tipo avvocati. Non tiriamola per le lunghe: i commercialisti non hanno il senso dell'umorismo. Ecco, l'hai detto tu, Ma cos'è? Abbiamo un sacco di commercialisti in ascolto, te ne assumi tu tutte le responsabilità. Adesso sono cavoli tuoi, te la vedrai tu con tutti quelli che ti scriveranno spiritosaggini per dimostrare che ti sbagli. No, per favore, i commercialisti che provano a essere simpatici, no. Eppure quello che volevamo, no? Prendere il commercialista della strada e portarlo al centro dell'attenzione qui in radio. Non è così, come dire, le barzellette sui carabinieri e quindi poi i carabinieri che fanno i simpatici. Non è così. È l'oggetto il carabiniere, quindi dovrebbero essere i clienti che fanno le barzellette sui commercialisti. Però non c'è niente, sono noiosi. Poi ti chiamano sempre all'ultimo momento, quando l'IVA è già scaduta. Non vogliono dirtelo, Non è che fanno ridere, ti fanno solo pagare delle cose. Allora, commercialista, hai sentito quello che pensa Kappa di te, che sei noioso. Allora, se non reagisci, non sei un vero commercialista. Aspettiamo con ansia le tue creazioni. Chiedo asilo a radio24.it oppure recita la tua barzelletta allo 02 46 52 44 95. Poi tanto al massimo mettiamo due risate finte. E ora, bambini, ricreazione! Uè, sentite un po'. Cosa c'è? Ma siamo sicuri che questo asilo sia regolare? Regolare. Non sarà mica abusivo. Ma quale abusivo? Ma sei sempre lì sospettoso, dietrologo, complottista, che palle. Non sarebbe mica la prima volta, Cioè, giorni fa hanno scoperto un asilo abusivo vicino a Roma, In una casa privata. Tenevano 8 bambini in una stanza di 30 metri quadri. Come dei poli in batteria. C'era una coppia che si faceva pagare 200 euro al mese per ogni bambino. Quanti bambini? Per tenere un monolocale. C'era con un angolo cottura, bagnetto e qualche giocattolo per terra. Comunque è vero, ha ragione Mamino Alberto, è successo davvero. Stavolta non si tratta delle sue fissazioni, è una cosa che è successa. Però questa l'hai detto tu, normalissima, sì, è vero. Appunto, io questa informazione. Se fosse abusivo anche il nostro asilo, si spiegherebbero anche molte cose. Tipo Suor Dentona. Ma come? No, perché? Finocchi cotti, la messa sottoterra, la petterra piccola un piccione malato. Forse le sì. Le cucine calvanti. Vabbè. Di quelle però... difficilmente fare a meno. Comunque sono sintomo di... Ma secondo te i tuoi genitori comunisti, attenti alla legalità, ti avrebbero mandato in un asilo abusivo? Ma figurati, che sarebbe quello che tira fuori il grano per il mio mantenimento? Sì. Lui è una fiera della legalità, della giustizia sociale. Quindi sicuramente il nostro asilo è regolare, no? Sì, però quando c'è da risparmiare... E mio padre si trasforma. Sì, diventa il classico italiano cialtrone opportunista. Quindi io non mi sorprenderei se mi avessero iscritto a mia insaputa un asilo gestito da gente borderline. Ma come borderline? Ex galeotti, disadattati. Non è che ti devi subito immaginare le cose peggiori. Ma qui è una deduzione logica. Scusate, se l'asilo fosse abusivo, sarebbe tutto fuori legge, no? Sì, ma quindi tu... niente controlli dell'igiene, niente cibo di provenienza ignota, sì, Sri Lanka. E soprattutto, perché essendo tutto abusivo, le maestranze sembrano formate da gente con precedenti penali, no? Ma come? Sposta tutto. Ma perché precedenti penali? Ma voi rendete conto? Ma non è vero, ma non ho capito. E adesso no, perché andando indietro con la memoria, alcuni fatti accaduti qui avrebbero una loro spiegazione. Ma se, ma cos'è mai successo di tanto grave qua all'asilo? Tanto grave lo lascio giudicare a voi. Sì. Però ogni tanto qualcosa capita. Sì. Per esempio, voi sapete qui ogni classe c'è il suo colore, no? Sì. I colletti dei grebbiolini. Eh beh, certo, è sempre stato così anche ai nostri tempi. E allora? Allora c'è stato un periodo in cui invece dei colori dei colletti hanno usato i tatuaggi. Ma sui bambini. Ma cosa? Ma quali tatuaggi? Ma sì, ogni classe aveva il suo tatuaggio di riconoscimento, eh? Il numero. Ogni bambino ha fatto un tatuaggio. Ma sì, ma tipo lager. Ma non quelli belli colorati, Quelli da galera, fatti con ago e viro. Ah, scarnification. Ovviamente tutto senza nessun tipo di precauzione igienica. Eh beh, certo. Una spruzzata di Fernet e vai. Ma come Fernet? Ma dove? A disinfettare il Fernet? No, un bicchierino. Sì. Ah, da bere. Da bere. Vabbè, buono. Beh, no, noi bambini ci siamo anche divertiti, Però forse, in un asilo regolare avrebbero continuato con i colori, no? Sì. Beh, in effetti ha ragione anche su questo. Però io non ho mai visto nessun tatuaggio. Ma non è finita. Fermate buono, sì. Una volta c'era lo sciopero, no? La manifestazione dei dipendenti pubblici. Perché erano tutti indignati. Indignati. E poi, se sono abusivi, di cosa si lamentano? Ma perché sono abusivi? Ma sono tutte due idee. Quella volta lì, siccome tutti sono andati, andiamo tutti in manifestazione. Allora, aspettaveci lì. Ci hanno messo dei ceppi alle caviglie per non farci uscire dalle aule. Ma non dirne più. E loro dicevano che lo facevano per il nostro bene, per la nostra sicurezza. Ma vabbè, dai. Infatti, però, in effetti avevamo un metro di catena per poterci muovere un po' intorno. E ognuno aveva la sua ciotolina di purè. Quindi loro, indignati, però un po' di umanità. Il purè è rimasto. Però dai, qui si tratta proprio di maltrattamenti. Se fosse vero, sarebbe un comportamento da denunciare immediatamente. Quindi i vostri genitori, quando siete arrivati a casa e gliel'avete detto, cosa hanno fatto? No, pensarci bene niente. Ma allora erano complici, no? Cioè, per risparmiare ci hanno iscritto all'asilo abusivo. Sì. E poi non potevano smentirsi da soli. Smetti, e poi le catene. Ma smettila di dire stupidaggi. Infatti, la fantasia, Roberto. Sei sempre fantasia. Fantasia, fastidio. Fastidio. Un'altra cosa. Voi sapete chi era Pacciani? Ma cosa c'entra adesso Pacciani? Un attimo. Beh, era un, come dire, ma perché vuoi saperlo? Non sono cose da bambini. Appunto. Allora, il nostro asilo si chiama Stoppani, no? Stoppani, quello del bel, quello di Lecco, del bel paese, Stoppani. Però qui dentro tutti lo chiamano asilo Pacciani. Ma chi? Come lo stadio di Milano, no? Che si chiama Meazza ufficialmente. Però tutti lo chiamano San Siro. Sì, Meazza. Quindi qui siamo. Allora, è Stoppani o Pacciani? Ma scusa, a parte che Stoppani non è un santo, quindi... Sì, signora. Ma no, sì, signora, dai, cos'è questa, dai? È un inizio famoso. Kiss. Oh. Poi? Vai. Dai, bambino Alberto. Parole, dai. Devi dire. Vedi. Vai. Kiss. Oh. Allora, pensate di prendermi in castagna, No, bravo.